Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo degli italiani e il fisco. Perché? Perché nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario tributario, oltre, come ricordato dalla Presidente della Giustizia Tributaria, Mario Cavallaro, oltre ad avere gli italiani con il fisco litigi, che non sono litigi verbali, ma per 32 miliardi, un dato in leggero calo sul 2015, dicevo, cresce però l'importo medio tra i 112 mila euro e i 194 mila euro. Dicevo, è arrivata la proposta di alcuni rappresentanti politici, penso in primo luogo al vice ministro dell'economia Luigi Casero. Dice: il governo sta valutando la rottamazione per l'abbattimento dell'arretrato, stiamo pensando alla definizione delle liti pendenti sulla base dei principi della rottamazione delle cartelle esattoriali, cioè per abbattere l'arretrato giudiziario tributario stiamo pensando a una rottamazione, anche perché il presidente della Corte di Cassazione Giovanni Canzio ha detto che sulla Cassazione incombe il macigno di 50.000 liti con il fisco arretrate, a volte anche di scarsissimo valore. E dice, insomma, il governo deve intervenire per evitare la deriva di una Cassazione civile che diventi solo tributaria. Il fisco rappresenta 4 su 10 ricorsi in Cassazione. Ora voi capite che chiaramente diventa ingestibile la situazione. Ne parleremo in apertura. Parleremo anche dello stadio approvato, lo sapete tutti, lo stadio della Roma, con le modifiche a partire dalle torri che Parnasi voleva fare. Ma il tema che veniva evidenziato, c'è tempo per carità, è anche quello dei collegamenti. È inutile fare degli stadi o riqualificare delle aree se non hai collegamenti. Ma a proposito di collegamenti, parleremo anche di trasporti in generale, perché si è concluso il Transpotec, il salone biennale dell'autotrasporto e della logistica a Verona, e questo è stato anche il momento per fare il punto sulle aziende dei trasporti e anche sulle difficoltà degli autotrasportatori e della concorrenza che spesso abbiamo raccontato, anche illecita, ma non i dati arrivati non sono, diciamo, completamente negativi, anzi. Lo vedremo, c'è un tema di in qualche modo da questo punto di vista solidificazione del settore e soprattutto di arresto della discesa che invece lo aveva investito anche per via di una concorrenza sleale in questi anni. E dopodiché parleremo, sempre per quello che riguarda la cronaca della giornata economico-finanziaria, dell'ILVA, perché sta per essere firmato presso il Ministero dello Sviluppo Economico l'accordo sulla Cassa Integrazione Straordinaria dei lavoratori dell'ILVA in amministrazione straordinaria. Il numero degli esuberi è sceso a 3.300 unità, più che esuberi temporanei, sono Cassa Integrazione, a 3.300 unità, di cui 3.240 a Taranto e 60 a Marghera, contro i quasi 5.000 chiesti precedentemente dall'azienda. Per quello che sarà la media, più o meno in media dovrebbero essere 2.500 le persone in cassa integrazione, perché appunto è a rotazione, e l'accordo sarà valido fino al termine dell'amministrazione straordinaria. Però attenzione, perché nello stabilimento di Taranto vi saranno anche 800 unità a zero ore, e a questi l'azienda garantirà una rotazione pari al 20% del tempo lavorabile, ma ne parleremo più avanti, così come cercheremo di capire che cosa stia immaginando il ministro Calenda, e qui veniamo alla cosiddetta norma antiscorrerie, dopo che la vicenda Mediaset in questo momento ha visto l'apertura di un'inchiesta contro Bolloré e Depuy Fontaine per con l'accusa di aggiotaggio. La vicenda Generali si è completamente sgonfiata, ma la cosa comune nelle due vicende erano i timori sull'italianità. Nel caso Mediaset, non solo per l'azienda in questo momento controllata come primo azionista da Fininvest, ma anche perché il timore grosso era che per poi mantenere, ed è tuttora, perché non è che Bolloré abbia rinunciato ancora, è che Telecom potesse essere usata come merce di scambio. La maggioranza di Telecom ce l'ha appunto Vivendi, e quindi poteva essere usata come merce di scambio nell'operazione. Il timore su Generali, lo sappiamo, era che potesse esservi un'avanzata francese anche lì. Allora, in questo momento Intesa, San Paolo ha chiarito che non è interessata, non ci sono gli elementi, i margini per andare avanti con un'operazione in cui in realtà Intesa ha solo fatto trapelare l'operazione, perché chi ha comprato titoli, cioè l'operazione potremmo chiamare le Generali se comprano Intesa, perché quello che è successo alla fine è che le Generali si sono prese oltre il 4% di Intesa e poi scenderanno al 3%, ma l'operazione è tramontata, lo dico perché il titolo ne prende atto, diciamo così. Generali perde il 3,50%, è l'unico veramente negativo oggi in borsa, e Intesa San Paolo, a dimostrazione che il mercato non è che avesse mai apprezzato molto questa operazione, devo dire con la massima ignoranza, se vi riascoltate le puntate di quei giorni, il dubbio, l'operazione, l'obiettivo strategico era chiaro, l'obiettivo politico era chiarissimo, quello che era molto poco chiaro era l'obiettivo industriale, e lo dicemmo in tempi non sospetti, cioè che te ne fai di Intesa San Paolo con le Generali, se poi devi andare a cedere degli asset delle Generali, non è che vai a impoverire ancora di più, o meglio vai a impoverire il gruppo triestino? Il mercato comunque festeggia l'abbandono dell'operazione, più 6,20%, Banco BPM più 5,40%, Leonardo più 5%, Biperbanca più 4%, UX Interporte più 3,5%, UbiBanca più 3,5%, Xor pure come Unipol, il 2,70% lo guadagna Buzzi Unicem, il 2,5%, Fiat Chrysler, il 2,20%, A2A ed ST Microelectronics, ma anche Unipol SAI. Allora, attenzione, Milano guadagna l'1,60%, è tra le migliori in assoluto, perché Parigi fa più 0,12%, Francoforte più 0,20%, Londra più 0,20%, il Dow Jones adesso è invariato, ma durante la seduta ha toccato nuovi record che si chiamano intraday, cioè non in chiusura, ma nuovi record nella giornata. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e come sempre la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Qui mi scrivono, ecco, arriva un mega condono. No, non, io non l'ho capita così, ma fra un attimo vi arriveremo. Non è esattamente un mega condono. Certo che la rottamazione che abbiamo visto con le cartelle, per esempio, evita il pagamento degli interessi di mora e quindi dà dei vantaggi. Da lì a parlare di condono, insomma, il condono era ancora più vantaggioso. Comunque adesso vi arriviamo, prendendo atto che se, come dice il Presidente della Corte di Cassazione, sono 50.000 cause arretrate, cioè voglio dire, non riesce a garantire neanche l'assolvimento, diciamo, della giustizia di base. Però andiamo avanti con il resto, e partiamo come sempre dall'economia internazionale. La Casa Bianca oggi ha annunciato un aumento delle spese per la difesa per 54 miliardi di dollari attraverso un taglio identico di altre spese, per la precisione sul fronte degli aiuti all'estero. E poi investiremo nelle infrastrutture, non ci sono altre scelte, ha detto Donald Trump, arriverà un nuovo bando sull'immigrazione forse già mercoledì, il decreto sostituirà il bando agli arrivi da 7 paesi a maggioranza musulmana, bocciato dal sistema giudiziario americano. E poi Trump ha detto che abbiamo una soluzione buona per sostituire l'Obama. Sul nuovo corso della Casa Bianca, su queste ultime novità, si concentrano i 100 secondi di Radio 24 sulle 24 ore, oggi a firma del vice direttore Alessandro Platerotti. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Platerotti. Si parla sempre di più di globalizzazione, di tensioni internazionali, di finanza spregiudicata e incontrollata e di pratiche predatorie nel commercio internazionale. Ma che cosa pensano le grandi multinazionali americane di questo periodo così confuso della globalizzazione? Uno spaccato l'ha fornito Jeff Immelt, amministratore delegato della General Electric, la conglomerata industriale americana più antica di Wall Street e soprattutto quella che ha scritto lo sviluppo industriale del mondo. Per Immelt, nella sua tradizionale lettera agli investitori, non è in crisi la globalizzazione, ma è in crisi quel modello di mondo che girava intorno a Wall Street, ovvero l'utilizzo dell'economia reale e dell'industria a fini meramente speculativi. Per Immelt non sono i capitali d'industria i principali responsabili di questa situazione, ma sono soprattutto quella che lui definisce un'elite mondiale speculativa, che pensava di poter tirare in eterno i fili dello sviluppo economico senza badare né alle disuguaglianze né alle esigenze reali delle imprese. Uno dei punti cardine di Immelt è quello di lasciare l'industria lavorare secondo le logiche economiche, non più soltanto quelle dei grandi accordi politici commerciali, quei trattati scritti a tavolino che non tengono spesso conto delle esigenze reali né del lavoro né delle imprese. Insomma, archiviamo il mondo volta pagina. L'era di Trump segna soprattutto questa svolta, non più politica nell'economia o quantomeno politica al servizio dell'economia. Se è proprio così, lo sapremo presto. Il mondo vuole crescere e c'è bisogno di lavoro. Dalle imprese americane, che tradizionalmente hanno svolto questo ruolo, si aspetta ora una verifica. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, le altre notizie, veniamo invece all'Italia, al di là degli esteri. Per quello che riguarda l'asta dei BTP, oggi il tasso a 5 anni è tornato sopra l'1% per la prima volta dal giugno 2015. Per quello che riguarda invece il commercio con l'estero, molto bene il dato di gennaio, è molto buono il dato di gennaio dopo il dato record nella bilancia commerciale italiana nel 2016. Più 20% l'export fuori dall'Europa e anche più 3% sul mese. Che cosa ha tirato molto? Cina, Stati Uniti e anche la Russia questa volta. Russia ha fatto più 39% l'export, paesi OPEC più 5%, Stati Uniti più 35%, il nostro export in Cina ha fatto più 36% e in Giappone più 29% rispetto all'anno prima. Qualcuno mi chiede di Unicredit, ha concluso in anticipo l'offerta in borsa dei diritti di opzione, cioè l'inoptato, vendita lampo, e quindi insomma, l'operazione si è chiusa anche per il cosiddetto inoptato. E allora, un'ultima notizia riguarda la pubblica amministrazione. Poco fa infatti è uscito un flash agenzia che dice come il Ministero della Pubblica Amministrazione stia per sbloccare 1300 assunzioni, mentre altre 800 sarebbero in rampa di lancio per un pacchetto di oltre 2000 nuovi posti di lavoro. E quanto prevede appunto un decreto già firmato dal Ministro della Pubblica Amministrazione a Marianna Madia, e adesso manca la firma del Ministro all'Economia. Questo dovrebbe essere una boccata d'ossigeno comunque per la pubblica amministrazione dopo l'operazione che si è chiusa, mobilità per le province, e adesso possono ripartire le chiamate. (Oh) 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi appunto la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Allora vediamo di capire che la proposta che è stata avanzata, devo dire anche abbastanza ufficialmente, perché non è una voce da sé infuggita, è stato il vice ministro Casero, vice ministro dell'economia, a citare testualmente un'ipotesi di rottamazione delle liti fiscali che valgono in questo paese 32 miliardi, ma soprattutto, oltre a valere 32 miliardi, uso il termine un po' forte, affossano l'attività della Cassazione. Lo ha detto il presidente della Corte di Cassazione Giovanni Canzio: 50.000 liti di arretrate e 4 ricorsi in Cassazione su 10. Pensate quanti possono essere i ricorsi in Cassazione. Sono di materia tributaria contro le decisioni delle commissioni regionali. Allora, andiamo avanti su questo tema con Salvatore Padula, vice direttore del Sole 24 Ore. Buonasera. Buonasera. La rottamazione va di moda, o meglio, andava di moda per la classe politica, poi non ha portato fortuna all'ex premier Renzi. Quella che noi vediamo come rottamazione è quella delle cartelle di Equitalia, laddove per rottamazione non si intende il condono di una volta in cui davi una quuota e tutto veniva abbonato. Esattamente. Questo lo dico chi mi scrive sui condoni. È un po' diverso, ti si dà la possibilità di saldare, tra l'altro non sempre in maniera così vantaggiosa, perché le rate sono meno di quelle, sì. di quelle che hai normalmente, di saldare senza pagare gli interessi di mora e le sanzioni stesse, giusto? Sì, sì. Però delle volte con rate che possono essere, se tu hai un grosso debito col fisco e tutto ti viene chiesto di essere pagato in 3 rate, mentre magari puoi rateizzare in 15, i vantaggi vanno calcolati. Insomma, è una cosa che va valutata caso per parliamo caso. Parliamo invece delle liti fiscali, perché l'allarme è doppio, lanciato sia dal Presidente della Corte di Cassazione, ma anche dal Presidente della Giustizia Tributaria all'inaugurazione dell'anno giudiziario. E ha detto Mario Cavallaro, insomma, 32 miliardi sono ancora, diciamo, a livelli un po' in calo, ma altissimi. Sì, guarda, i numeri sono disastrosi, perché ai 50.000 ricorsi giacenti in Cassazione che tu hai 50.000. Citato, si aggiungono i 450.000 che stanno tra le commissioni provinciali, quindi in primo grado, e le commissioni regionali, quindi in secondo grado. Quindi la giustizia tributaria, che è un po', diciamo, la cenerentola, devo dire, della giustizia, no? A volte spesso a torto, dimenticata o bistrattata, ha un arretrato di 500.000 cause che valgono per il solo 2016, ed escludendo la Cassazione, l'importo che hai citato tu, 32 miliardi, ma lo stock, cioè quello riferito alle 450.000 cause, esclusa la Cassazione, vale 65 miliardi di euro. Quindi, insomma, diciamo, la partita... Tre manovre finanziarie. Esatto, tre manovre o quattro, insomma, vale tanto. Allora, che cosa è successo oggi? È successo che il viceministro dell'economia Luigi Casero dice: questa è una situazione che va affrontata, lo faranno, diciamo, potenziando ovviamente la Cassazione, si pensa a una sezione bis che si occupi esclusivamente di ricorsi tributari, alzeranno la soglia del limite attuale della mediazione, cioè una procedura introdotta per, diciamo, smaltire velocemente, senza arrivare al giudizio, al processo, le cause di valore più piccolo, portando questa soglia da 20.000 a 50.000 euro. Però l'altra cosa che si annuncia è quella di pensare a una sorta di rottamazione delle liti, un po' sulla scorta di quello che stanno facendo, cioè, con le cartelle esattoriali. Come dovrebbe funzionare? Questo purtroppo ancora non lo sappiamo, però, diciamo, quello che ha detto Casero, che leggo testualmente, un meccanismo simile, quindi... Cioè, io potrei dire, se tu rinuncia al ricorso, sospendi il ricorso, immagino, perché a questo sì, punto sarà poi, diciamo, graduato per chi sta in primo grado, per chi sta in secondo grado. Se io ho già vinto una volta, no, a volte ho vinto 2 volte e sto col ricorso ancora pendente in Cassazione, allora in quei casi lì, a volte anche per il contribuente può essere, diciamo, utile chiudere la partita col fisco pur in attesa della sentenza. Ma dici, se il fisco ha vinto 2 volte? No, se il contribuente ha vinto 2 volte, poi è in attesa del giudizio della Cassazione. E per, a volte, per le società, per le, insomma, certo, per le strutture molto grandi. Ma poi ci sono i casi in cui hai vinto magari in primo grado e perso in secondo grado, o viceversa. Insomma, si possono trovare delle modalità per fare. È giustissimo quello che, insomma, i tuoi ascoltatori segnalano, cioè bisogna assolutamente evitare che si vada verso una cosa che assomigli anche lontanamente a un condono fiscale. Però, insomma, è vero che in qualche modo sembra esserci una certa disparità tra la possibilità di rottamare la cartella esattoriale, quindi, diciamo, una cosa che dove già hai conclamato che tu avevi torto e devi pagare, no? E invece la lite fiscale che resta lì appesa e non puoi definirla e non puoi chiuderla, ecco, in nessun domanda, modo. Mi scrivono alcuni ascoltatori, dunque, ma va detto che il ricorso in Cassazione è colpa dello Stato, che se anche perde 2 volte continua a ricorrere. Sì. Adesso però non so in che proporzione, però immagino che sia anche colpa del contribuente, che magari ha perso 2 volte e torna a ricorrere, o giustamente ha vinto 1 volta e ha perso 1 altra e fa ricorso in Cassazione. Sì, adesso io non conosco il dato di quanto quante volte sia lo Stato, quindi diciamo l'Agenzia delle Entrate, sostanzialmente a ricorrere dopo aver perso due volte, e di quante volte invece sia il contribuente. Questo dato non lo conosco, però insomma oggettivamente, se ora attualmente il nostro ordinamento prevede un terzo grado di giudizio, insomma capisco che a volte uno, a volte l'altro preferiscano proseguire insomma nel contenzioso, ecco. Sì, così a naso dovrei dirti che insomma obiettivamente posso capire il privato che tenta tutti i gradi di giudizio, ma l'amministrazione pubblica che fa ricorso contro se stessa, cioè se per ben due volte, primo grado e appello, hai dato ragione al contribuente, cioè forse anche un po' di granossali si potrebbe usare. Certo che se vai in automatico è chiaro che poi in un modo o nell'altro arriva a 50.000 e a mezzo milione tra quelle che sono, devono ancora arrivare in Cassazione. Certo, certo, e ne arrivano tantissime ogni anno, perché io vedo che la quota che va a ingrossare diciamo l'arretrato è di 10-11 mila cause all'anno, quindi insomma sono numeri. È stato chiedo calcolato che da qui, che mi sta dicendo, ma state parlando a Vanvera, che mi specifichi articoli meglio l'oggetto della sua critica, ti ho interrotto, scusami. No, dicevo che è stato stimato che da qui al 2020 le cause giacenti in Cassazione potrebbero diventare 90.000, quindi insomma parliamo di numeri enormi, quindi è fondamentale fare qualcosa, intervenire, giustamente bisogna potenziare il lavoro della Cassazione, forse anche trovare un modo, diciamo indolore e senza fare regali a nessuno, sì, ma forse per anche smaltire, magari trovare anche un modo. Io dico una cosa, ma se tu hai primo e secondo grado è chiaro che dovresti cambiare la legge, mica, devi fare, nel senso che io posso capire il ricorso quando tu hai due livelli di giudizio discordanti, il primo ti accusa, il secondo ti assolve o viceversa. Certo che però se hai due livelli di giudizio che tutti e due ti danno torto, forse il ricorso in Cassazione, come era previsto in realtà dalla legge originariamente, dovrebbe essere limitato ad alcuni vizi, non andare, come invece poi avviene di fatto, in automatico. Sì, sì, è un problema più generale che riguarda la giustizia nel suo complesso. Mi scrivono, allo Stato non costa nulla di ricorrere in Cassazione. Beh, costa l'efficienza dello Stato. Sì, sì. Nel senso che non costi nulla come costi al privato, siamo d'accordo. Però costa sull'efficienza dello Stato, perché poi appunto blocchi i tribunali, anche perché appunto 4 ricorsi su 10 sono per motivi tributari. Per concludere, Salvatore Padula, questo però porterebbe diciamo a snellire la giustizia tributaria, ma anche a far incassare di più, o no? Non necessariamente. Ma guarda, se ho capito bene, l'idea anche di intervenire adesso rapidamente con un'operazione di rottamazione, in qualche modo diciamo di chiusura agevolata di liti pendenti, è anche legata alla necessità della manovrina, i famosi 3,4 miliardi, lo 0,2% del PIL, quindi diciamo è un'operazione che nell'immediato potrebbe anche diciamo avere il vantaggio di garantire allo Stato di trovare quei 700, 800, 900, un miliardo di euro che ti servono per fare ad aprile la manovrina. Insomma, ecco, questo, insomma, quindi diciamo questa è una cosa che probabilmente viaggia su un doppio binario, un intervento immediato che serve anche a recuperare risorse, diciamo, esattamente, e un obiettivo di razionalizzazione più di lungo respiro. Staremo a vedere, mi sembra però insomma, che ci siano tutti i presupposti perché questa cosa si faccia nel corso dell'anno, e poi però che si affronti il tema non solo per recuperare cioè una prima parte adesso, ma qualcuno mi scrive i 3 gradi di giudizio sono troppi, ho capito, lì giustissimo, bisogna, è verissimo. Ma poi ripeto adesso, in un senso o nell'altro, cioè dovrebbe essere proibito all'amministrazione pubblica di fare ricorso se hai perso due livelli di gradi di giudizio, e fatte salve alcune fattispecie, certo, molto chiare, alcuni vizi, per carità, vizi di sostanze, e dovrebbe essere escluso anche per il privato poter fare ricorso. Hai perso il primo grado, hai perso l'appello, ma basta, nel senso, cioè, o concorre qualche nuovo elemento, o se no non possiamo intasare. Tra l'altro tutto questo ha un costo sia per l'amministrazione, che non sa quanto incassa, ma ha dei costi enormi anche per il privato, che non sa se potrà poi, se dovrà, perché le aziende devono accantonare dei soldi. Questo è il motivo per cui volte, anche avendo vinto due volte, quando poi si trova in Cassazione, la grande azienda preferisce chiudere la partita, attendere il giudizio. Perché sennò i soldi che hai messo da parte e devi accantonare in caso di perdi, dovessi perdere la causa, ti restano bloccati lì, non li puoi usare, non li puoi far fruttare, insomma, sono accantonati e basta. Questo lo dico perché c'è il privato, ma c'è anche poi la figura giuridica, cioè l'impresa, che di fronte a queste cose si trova a dover mettere da parte, come ci scrivono molti ascoltatori, dei soldi che poi preferisce delle volte arrivare, anche quando pensa di aver ragione, andare a lo Stato non mette a bilancio quei 32 miliardi, no, chi lo sa, non li mette a bilancio, perché non sono 32 miliardi che possono essere contabilizzati. Adesso sarebbe strano anche questo, aspetti il giudizio e già li metti come soldi tuoi. Grazie Salvatore Padula. Grazie. Andiamo sul meteo, pubblicità e poi la borsa. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, la borsa e poi gli altri temi di questa giornata economico-finanziaria. Poco fa ci deve aver ascoltato il vice ministro Casero, perché qualche istante fa è uscita un'agenzia in merito al tema con cui abbiamo aperto, rottamazione delle liti fiscali. Non ci sono dettagli definiti, l'idea di rottamazione delle liti pendenti è solamente un'ipotesi per deflazionare il contenzioso tributario, e va bene. Che peraltro deve essere inserita in un piano più organico di revisione della giustizia tributaria, sì. Ciao core, come dicono a Roma, e non si lega ad interventi immediati di finanza pubblica. Quindi l'ipotesi che avanzava poco fa Salvatore Padula, che potesse servire anche per tirar su, aumentare un po' il gettito in vista della manovrina, Casero la in questo momento smentisce, poi vedremo. Allora, le borse, Intesa San Paolo festeggia, o meglio, il mercato festeggia il fatto che Intesa non voglia andare avanti sulle operazioni generali, e quindi il titolo guadagna il 5,50%, sul fronte opposto proprio le generali perdono il 2,80%. In realtà il miglior titolo è tra quelle a maggiore capitalizzazione è Banco BPM, più 6,11%. Qui c'entra in senso positivo la Banca Centrale Europea, come ci chiarirà Paolo Paronetto di Radio Corriere Sole 24 Ore. Buonasera Paolo. Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, partiamo da Banco BPM, poi andiamo su Intesa e le altre. Sì, Banco BPM proprio sul finale ha superato Intesa San Paolo, ha chiuso in testa il FTSE MIB. In questo caso venerdì è arrivata la comunicazione dei target minimi patrimoniali da parte della BCE per il 2017, che sono Banco BPM è l'ultima banca a riceverli, perché essendo nata proprio il 1 gennaio dalla fusione ha richiesto più tempo la comunicazione di questi obiettivi, e sono risultati molto inferiori ai livelli patrimoniali che il Banco BPM già soddisfa. L'obiettivo di Common Equity Tier 1 è all'8,15%, e l'istituto a fine 2016 aveva un Common Equity Tier 1 del 12,3%, quindi diciamo che è una comunicazione che conferma la solidità dell'istituto e dovrebbe fermare la speculazione che di recente in borsa aveva un po' penalizzato i titoli proprio su possibili nuove richieste da parte della BCE. Per quanto riguarda Intesa San Paolo, come dicevi tu, è tutto legato allo stop all'operazione generali annunciato venerdì. Il mercato e gli analisti hanno apprezzato, diciamo, la cautela dell'istituto nei confronti di un'operazione che avrebbe potuto anche impattare negativamente, ad esempio, sui flussi di dividendi da parte della banca, e quindi il titolo è salito del 5,49%. E dall'altra parte generali, naturalmente, è venuto meno l'appeal speculativo che aveva spinto il titolo nelle ultime settimane, e per questo è stata la peggiore del FTSE MIB. Allora, sì, è anche l'unica, diciamo così, negativa. Esattamente, sì. Dunque, andiamo avanti con il resto, perché dopo il piano della settimana scorsa, devo dire che Leonardo, che era stata un po' penalizzata dalle vicende giudiziarie di Moretti, continua a correre, è più 4,90% l'ex Finmeccanica. Sì, esattamente, no? Continuano l'apprezzamento per i target del piano annunciati la settimana scorsa, e poi c'è da dire che il titolo accelerato sul finale dopo l'annuncio del presidente americano Donald Trump, che ha promesso un aumento storico del budget per la difesa, naturalmente riguarda le società americane. Leonardo è presente anche negli Stati Uniti e comunque ha messo in fermento tutto il settore della difesa, anche quello europeo, e quindi ne ha beneficiato sul finale anche il titolo Leonardo. Allora, andiamo avanti con il resto del mercato invece. Segnalo in maniera più che positiva anche Biper Banca più 4,30, Exor più 4, Yux Santa Portè più 4, Unipol più 3,80, UBI Banca più 3,5, Buzzi Unicem più 3,20, Fiat Chrysler più 2,60. 1%, Unipolsai pure, A2A più 2,5 come Unicredit ed ST Microelectronics, il 2,30 lo guadagnano Brembo e Atlantia. Devo dire, Paolo, che Milano è nettamente la migliore, c'è Parigi invariata, Francoforte più 0,1, Londra più 0,2. Dow Jones invariato, noi facciamo più 1,71%. Sì, esattamente, diciamo che secondo gli operatori tutta Europa ha una giornata abbastanza priva di spunti in attesa del discorso di Trump di fronte al congresso domani sera. Milano, proprio la vicenda generale intesa che ha messo le ali ai titoli dell'istituto e quindi a tutto il settore bancario, insieme anche alla vicenda del Banco BPM, ha sostenuto il comparto, che ha messo a segno quindi questo rimbalzo consistente dopo 3 sedute in rosso la settimana scorsa. Allora, andiamo invece sui migliori e peggiori, che oggi sono più divertenti, perché abbiamo il primo posto, più divertenti del solito, magari delle volte sono titoli, con massimo rispetto, ma titoli abbastanza sconosciuti. Al primo posto Lucisano Media Group, che fa un botto, più 20%, e qui c'è proprio un film al botteghino, no? Sì, esattamente, gli ultimi dati del botteghino certificano il successo del film Beata Ignoranza, prodotto proprio dalla società insieme a Rai Cinema e 01 Distribution, che in base agli ultimi dati ha già incassato 1,2 milioni piazzandosi al secondo posto dopo il blockbuster cinese-americano The Great Wall. Quindi Giallini e Gasman... Esattamente, spopolano, sì, più 20%, tra l'altro non è l'unico titolo. È vero, c'è anche Digital Bros. Cinematografico, c'è Digital Bros, ma anche Notorious, sempre su Lime Italia, ricordiamo che l'uccisione è quotata su Lime Italia, Notorious Pictures ha guadagnato circa il 5,46% per la precisione, anche in questo caso dati di botteghino che premiano la società, in questo caso ha prodotto il film La Marcia dei Pinguini, Il Richiamo. Dati positivi che sostengono anche i titoli quotati in borsa. Allora, fammi indovinare perché sale la Roma Calcio invece, più 7%. Ma diciamo che il tema dello stadio è naturalmente il più citato, l'accordo ha premiato il titolo a Piazza Affari, inoltre naturalmente anche la vittoria in campionato che rende più concrete le speranze di Champions League, che ricordiamo per le società sono... comunque vogliono dire incassi aggiuntivi, entrate aggiuntive, e entrambi i fattori, il titolo ha guadagnato il 7%, chiudendo a 0,466 euro. Allora, peggiori oggi, una giornata appunto in cui prevalgono i segni più, EMS meno 10, Neurosoft meno 7,5, Friendly Energy meno 7,30, Vita meno 5,80%, Ceramiche Ricchetti meno 5,40%. Andiamo sul traffico, mi chiedete dell'euro, avete ragione, l'euro in questo momento è a quota 1,0620, sul dollaro 349-238-6666 per sms e whatsapp. A proposito di trasporto, dopo la settimana d'inferno per i taxisti e soprattutto anche per i clienti dei taxi, un altro tema che riguardava l'autotrasporto, e mi riferisco al trasporto su gomma, la settimana scorsa ci siamo occupati delle linee guida del trasporto su ferro, quindi il trasporto merci. Beh, ricordate che in questi anni il grido d'orrore che arrivava dai nostri autotrasportatori riguardava una concorrenza sleale interna all'Europa, qui i cinesi non c'entrano, qui c'entravano soprattutto i camionisti dell'est Europa, e l'occasione ci viene fornita dalla chiusura della più importante manifestazione, che è biennale, proprio per il settore dell'autotrasporto, si chiama Transport, e che si è conclusa in questo fine settimana a Verona. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Faircam Transport, puntuale ed efficiente nel rispetto dell'ambiente. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta Focus Economia. Allora, vediamo di capire se ancora la concorrenza peggiore, se i cinesi, il mondo dell'autotrasporto ce li ha in casa, cioè in primo luogo autotrasportatori sloveni e non solo. Attenzione, il problema non era il mercato unico europeo, il problema è la concorrenza sleale, e se questi poi fanno operazioni di dumping viaggiando in maniera non sicura, c'erano problemi legati anche in primo luogo alla sicurezza stessa. Chiedo lumi a Pasquale Russo, segretario generale del FAI, Federazione Autotrasportatori Italiani, Conftrasporto, buonasera. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, avete ed è emerso da questi incontri che avete avuto a Verona durante Transpotec ancora un problema con la concorrenza sleale interna nell'Unione Europea. Al 22 febbraio 2017 le imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori erano 123.121. Tra l'altro è iniziato il processo di cancellazione di 23.000 realtà che non risultano più iscritte alla Camera di Commercio. Alla fine della pulizia dovrebbero risultare circa 90.000 imprese iscritte all'albo, che corrisponde con un numero di attestati di irregolarità rilasciati nel 2016. Ma dicevo, la concorrenza vi arriva ancora dai paesi interni dell'Unione Europea? Ma assolutamente sì, il problema è che la costruzione dell'Europa in relazione a quelle che sono le imprese di trasporto merci su strada è una costruzione oggettivamente asimmetrica, perché come si sa il costo del lavoro che viene sostenuto dalle imprese che risiedono soprattutto nell'est dell'Europa è significativamente più basso, siamo a livelli pari al 50% di quello che è il costo di un conducente italiano. Che cosa succede? Succede che queste imprese che hanno dei costi di lavoro così nettamente inferiori vengono ad operare nel territorio italiano eludendo quelle che sono le regole del cabotaggio, e il cabotaggio è proprio quel regolamento che dovrebbe disciplinare la possibilità delle imprese straniere, ancorché europea, di poter eseguire un trasporto all'interno di uno Stato membro, in questo caso parliamo dello Stato italiano. È evidente che nel momento in cui il cabotaggio, il regolamento sul cabotaggio viene sistematicamente eluso, si dà la possibilità a queste imprese di poter esercitare liberamente contro i regolamenti comunitari e di far concorrenza sleale alle nostre imprese. Allora, faccio un esempio. Aver monitorato i valichi ha fatto scoprire che c'è una percentuale superiore al 60% di camion stranieri che entrano e escono. Ora uno può dire, vabbè, magari noi abbiamo un tale export bellissimo che vengono quelli sempre gli stranieri a prendere le nostre merci o portare le nostre merci e non noi. La cosa interessante è che c'è la costante presenza, addirittura al Brennero e a Pesek, tre mezzi su quattro, cioè il 75%, anche di più, sono stranieri. Ma una costante presenza dei mezzi con targa dei paesi dell'Est Europa in tutti i valichi analizzati. Allora, o noi abbiamo un interscambio commerciale spaventoso con tutto l'Est Europa, oppure devo pensare che vengono qua a fare il lavoro che non dovrebbero poter fare, che infatti non possono fare, e cioè il cabotaggio interno. Assolutamente sì, tengo presente che negli ultimi anni la quota di trasporto stradale fatta da vettori comunitari in regime di cabotaggio è cresciuta del 700%, è evidente che c'è qualcosa che non funziona, ma voglio aggiungere una cosa, vede, questo lo voglio dire perché è importante. Gli altri paesi dell'Unione Europea, e parlo di paesi importanti, parlo della Francia, parlo della Germania, parlo della Danimarca, parlo dell'Olanda, che cosa hanno fatto per frenare questo sistematico fenomeno del cabotaggio abusivo? Hanno emanato delle leggi che sono anche, diciamo, abbastanza al limite del rispetto dei trattati comunitari sulla libera circolazione delle persone e delle merci. Dicevo, hanno emanato delle norme che stanno in qualche modo bloccando l'attività dei vettori comunitari che fanno trasporto di cabotaggio. Come l'hanno fatto? L'hanno fatto prevedendo e obbligando che chiunque entra nel proprio paese, mettiamo il caso la Francia, qualsiasi impresa del trasporto vada ad operare in Francia anche per un trasporto internazionale e non solo in cabotaggio, deve rispettare la regola del salario minimo dell'autista francese. Quindi faccio un esempio: se io sono un trasportatore sloveno che va in Francia ed esegue un trasporto anche internazionale, devo dimostrare ai francesi che il mio autista ha la stessa paga minima dell'autista francese. Questo, come dire, persegue due obiettivi: uno, quello di frenare appunto la presenza di questi di queste imprese estere che vengono a fare cabotaggio, e due, attenzione, evita o far venir meno l'interesse, in questo caso delle imprese di francesi, di delocalizzare in paesi dell'est, perché il 700% di cui parlavo prima è evidente che non è un dato sostenuto soltanto dalle imprese dell'est europea, è un dato al quale ci si è arrivati perché molte delle imprese italiane hanno messo la sede all'estero. No, quello che diciamo noi, è quello che noi abbiamo detto al ministro, facciamo come hanno fatto in Francia, Germania, eccetera, eccetera. Sì, mi stanno scrivendo molti ascoltatori, glielo dico, sì. Dicono, anche nelle imprese dove lavoro molto spesso chiamano il TIR della Slovenia. Allora attenzione, perché questo è il problema, non è che il problema è che se uno della Slovenia esporta in Italia usa un TIR sloveno, i discorsi sono... Il problema è che tu non puoi usare i TIR sloveni in questo modo per fare trasporto dentro la penisola, per esempio, o magari per portare le tue merci da qua alla Germania, da qua alla Francia, a meno che non si trovi l'escamotage di chiedere a quei TIR il salario minimo che viene garantito anche in Italia e l'obbligo di tutte le... un insieme di altre normative burocratiche che i nostri camionisti hanno e non gli altri. Pasquale Russo, non mi ha confortato, vedo che il tema è rimasto tutto lì e anzi, se possibile, si è anche acuito durante la crisi. Almeno, diciamo, i dati buoni che sono arrivati dalla Fiera di Verona riguardano, per esempio, le immatricolazioni, più 55% delle immatricolazioni di veicoli. Focus Economia. Pour me a taste of something good. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Allora, partiamo adesso da altri due temi. Uno sicuramente non bello, però riguarda l'Ilva di Taranto, perché è in dirittura d'arrivo l'accordo per la cassa integrazione dei lavoratori dell'Ilva in amministrazione straordinaria. Rispetto alla richiesta iniziale dell'azienda, 4.984, si è scesi a 3.300 unità, di cui 3.240 per Taranto e 60 per Marghera. Di media la cassa integrazione però riguarderà 2.500 persone, appunto 2.465 a Taranto, 35 a Marghera, e l'accordo sarà valido fino al termine dell'amministrazione straordinaria. Tra l'altro, nello stabilimento di Taranto 800 unità saranno a 0 ore, ma a queste l'azienda garantirà una rotazione pari al 20% del tempo lavorabile, nel quale i lavoratori non lavoreranno ma faranno attività di formazione e riqualificazione professionale. Domenico Palmiotti in collegamento con noi da Taranto, buonasera. Buonasera Sebastiano, buonasera agli ascoltatori. Ecco, l'accordo è stato firmato un quarto d'ora okay, fa. Ok, perfetto, quindi è a questo punto la firma c'è e tutto quello che stavamo raccontando con il condizionale tutto può essere raccontato con indicativo, certo. Possiamo ricordare come si è arrivati, ahimè, a questa cifra comunque alta di 3.300 unità? Si è arrivata a questa cifra, si è partiti da quasi 5.000 persone perché si è cambiato anzitutto ammortizzatore sociale, quindi dai contratti di solidarietà si è passata alla cassa integrazione straordinaria e quindi inizialmente l'azienda, a fronte di diversi impianti che per mancanza di ordini, mancanza di domanda di mercato rimarranno completamente fermi, aveva appunto indicato una cifra molto più alta. Cifra che però i sindacati avevano subito respinta, da qui era partito il lavoro di mediazione del MISE che oggi ha portato a questo risultato. Diciamo il primo punto positivo è che i numeri scendono e scendono significativamente, perché come tu dicevi da 4.984 si è attestati a 3.300 come tetto, però in realtà la media sarà di 2.500 persone, grosso modo siamo sui numeri che c'era in precedenza con la solidarietà. In secondo luogo, da un punto di vista economico, i lavoratori non perdono nulla rispetto alla solidarietà, perché il governo ha messo a disposizione 24 milioni, questi 24 milioni ci sono già perché sono inseriti nella legge per il Sud che il Parlamento definitivamente ha approvato qualche giorno fa. Infine, la cassa integrazione non ha una durata temporale definita come di solito accade, di 6 mesi o di un anno, ma è legata all'amministrazione straordinaria. Amministrazione straordinaria che ultimamente, proprio con la legge per il Sud, è stata diciamo prorogata fin quando non ci sarà il completamento dei piani ambientali e i commissari a loro volta possono anche proporre misure ambientali aggiuntive rispetto a quella dei privati. Ecco, il comunicato, cioè l'accordo recita che questa cassa integrazione verrà mantenuta anche se vi saranno verifiche bimestrali con i sindacati. Verrà mantenuto fino al termine dell'amministrazione straordinaria, quindi? Beh, quindi diciamo andremo sicuramente oltre il periodo dell'anno, perché precedenti leggi prevedono che i privati, una volta presentata la loro offerta economica e industriale, possono chiedere una modifica dell'AIA e avere, diciamo, rispetto ai tempi della vecchia AIA, un'ulteriore proroga. Quindi quest'ulteriore proroga copre già tutto il 2018 e la legge per il Sud prevede che i commissari restino in carica fino a quando gli impegni dell'AIA assunti dai privati siano portati a termine. Se quindi i privati, come lascia tutto supporre, chiederanno di usufruire della proroga che la legge mette a loro disposizione, è ovvio che prorogando i tempi dell'AIA si prorogherà anche la funzione dei commissari, che rispetto agli impegni dei privati e agli investimenti dei privati dovranno appunto vigilare e controllare che gli investimenti annunciati nei piani siano realizzati. Tra l'altro, Domenico, questo accordo arriva a pochissimi giorni dalla attesissima, ormai perché ne parliamo da mesi, consegna delle offerte definitive per l'acquisizione degli asset Ilva. Due le cordate concorrenti, ArcelorMittal con il gruppo Marcegaglia da una parte e Jindal, Cassa Depositi e Prestiti, Delfin e Arveglia dall'altra. Il 3 marzo a questo punto vuol dire che arrivano le offerte e poi? Il 3 marzo arrivano le offerte, dopodiché ci sono 30 giorni per esaminare queste offerte da parte dei commissari, da parte dell'advisor indipendente. Praticamente le due cordate dovranno fare la loro offerta economica vincolante, dovranno presentare il piano industriale e dovranno presentare il piano ambientale con le prescrizioni che quasi due mesi fa il Ministero dell'Ambiente ha dettato a ciascuna delle due cordate. Dopodiché tutto questo sarà vagliato e si deciderà quale delle due cordate, diciamo, supererà l'esame e quindi sarà ammessa alla trattativa finale, alla stretta finale del negoziato. Ecco, nel frattempo l'Ilva però, nonostante non stia operando senza il suo principale altoforno, quello che deve essere ristrutturato, ha avuto un miglioramento nei conti. 2016 la produzione ha fatto più 23%, certo, a 5.800.000 tonnellate, praticamente 1.100.000 tonnellate in più rispetto al 2015. Siamo ancora ben lontani dai picchi del 2011 e precedenti al commissariamento del 2013, però c'è un recupero dell'attività produttiva, e così come il fatturato è salito da 2 miliardi e 100 milioni a 2 miliardi e 200 milioni. Questo, dicevo, senza comunque l'apporto del principale altoforno, Domenico. Sì, certo, ci sono stati dei segnali positivi, c'è stata una ripresa della domanda del mercato, e ovviamente il fatto che l'Ilva abbia prodotto di più si è riflesso positivamente anche sulla produzione di tutta l'acciaio italiano, cioè l'acciaio italiano ha messo a segno un buon 2016 grazie a questo di più che ha prodotto l'Ilva. Invece in questa primissima fase del 2017 l'azienda ha lievemente sforbiciato la produzione giornaliera, è passata da 16.000 tonnellate giorno a 13.000 tonnellate, questo perché ci sono alcuni settori che non stanno tirando, come i tubifici e la produzione lamiera, e quindi si è deciso di ridurre la produzione, ma di non fermare del tutto questi impianti. E che cosa si è introdotto? La lavorazione per conto terzi, cioè l'Ilva prende bramme di clienti del mercato siderurgico, lavora queste bramme e le riconsegna ai clienti. In questo modo, diciamo, tiene un po' di attività in questi impianti che altrimenti sarebbero completamente fermi. E quindi avremo, insomma, verso i primi di aprile dovremo capire non solo chi è stato scelto, ma anche appunto chi si prenderà l'impegno, no? Certo, anche se poi voglio dire il passaggio di consegne vero e proprio non è così immediato, perché già i commissari stimavano qualche tempo fa che il trasferimento definitivo degli asset sarebbe avvenuto nell'arco di 6-7 mesi a partire dalla chiusura della trattativa. Teniamo conto che non si cede solo l'Ilva, ma insieme all'Ilva si cedono diverse altre aziende, e quindi voglio dire il passaggio richiederà del tempo, anche se due delle aziende del gruppo saranno cedute autonomamente, come l'Inse Cilindri, che è a Brescia e fabbrica cilindri per gli impianti siderurgici, e l'altra è Stanac, che produce materiali refrattari per la siderurgia. Queste due aziende prima erano nel blocco complessivo da mettere sul mercato, poi siccome c'erano delle offerte specifiche i commissari le hanno scorporate e le venderanno autonomamente, però tutto il resto, che non è poco, verrà venduto in blocco. Allora, grazie a Domenico Palmiotti, anche perché ci ha dato conferma della notizia in diretta e quindi che si è chiuso l'accordo. Non è una buona notizia quando chiudi un accordo per 3.300 cassi integrati o esuberi temporanei. È buona solo perché erano 1.000, lo dico che mi sta scrivendo, 1.500 in più, ma certo che segnala una difficoltà. Grazie intanto, dicevo, Domenico Palmiotti. Andiamo sul traffico. Focus Economia. Allora, ultimo tema è quello che in realtà è montato nel fine settimana, perché mentre si spostava verso il tribunale la vicenda Vivendi Mediaset con l'indagine della procura nei confronti del numero uno Bolloré e dell'amministratore legato Due Puy Fontaine, e mentre Intesa San Paolo diceva in maniera molto esplicita che non si erano realizzate le condizioni per andare avanti a valutare l'ipotesi di un ingresso in generale, adesso la traduco male ma il motivo era quello, per cui insomma la parte industriale, oggi la borsa ha festeggiato comprando Intesa e vendendo Generali, dicevo, è trapelata, ma neanche tanto, c'è una dichiarazione, l'ipotesi a cui starebbe lavorando il ministro Carlo Calenda, cioè un'operazione di trasparenza per chi acquista partecipazioni rilevanti in settori di interesse strategico per il paese. La risposta non è mai l'italianità ma è l'interesse nazionale, che è una cosa un po' diversa. E poi ha detto Calenda, non siamo più fessi dei francesi. Che cosa è successo? È successo che in Francia un'operazione che sembrava già scritta, l'abbiamo già parlato, Fincantieri, che compra degli importantissimi cantieri navali francesi, è bloccata dalle resistenze anche politiche. E allora la frase non siamo più fessi dei francesi è: non è possibile che ogni volta che un'azienda italiana cerchi di comprare un settore, in questo caso una cantieristica che va male, ne abbiamo parlato, viene bloccata le iniziative politiche, e voi pensate di fare le cosiddette scorribande in Italia come più vi pare. Devo dire che in questo caso il peccato originario è del precedente governo, o meglio di non avere dato abbastanza peso o aver pensato che si potesse risolvere in un altro modo alla vicenda Telecom Italia, cioè nel senso che è difficile sostenere che Mediaset sia più strategica per Telecom. Dentro Telecom Italia passano anche tutte le intercettazioni di questo paese, però la scottatura, la bruciatura è stata presa perché i francesi sono diventati in Telecom Italia i primi azionisti. Vivendi ha dentro Telecom Italia il 24%, se non ricordo male, del capitale, ed è di 26, adesso andiamo a controllare per la precisione, ed è di gran lunga il primo azionista di riferimento. Telecom è strategica, tant'è che nell'operazione Mediaset il timore è che poi Bolloré vada a cedere, a vendere a Orange la sua quota in Telecom per poter concludere l'operazione Mediaset, ecco perché rientrava nella partita anche Telecom Italia. Ma ci sono altre società che, come in altri paesi, vengono considerate strategiche. Di solito gli settori più classicamente strategici sono, oltre a telecomunicazioni, energia e difesa. Devo dire che in Enel il tesoro ha una quota rilevante, del 23%, ma questo non mette al riparo da incursioni. Lo stesso Interna, dove la Cassa Depositi e Prestiti è al 30%, in Leonardo al 30%, il flottante è ampio, quindi i titoli trattabili sono molti. Non verrà blindata invece Poste, insomma è controllata dal 65% dello Stato e poi si vuole dare una nuova tranche di privatizzazione. E poi c'è anche l'ex Pirelli Cavi, Prismian, perché è una public company a capitale molto diffuso, il primo azionista è la TIP di Giovanni Tamburi con il 6%, facilmente contendibile. Ora vorrei capire come si stia articolando questa ipotesi, diciamo, di una norma anti-scorrerie con Carmine Fottina del Sole 24 Ore. Buonasera Carmine. Buonasera. Allora, al di là dell'essere non più fessi dei francesi, ma l'ipotesi, se ho ben capito, qual è? Che ogni volta che un gruppo straniero vada a comprarsi un pezzo superiore, Chi ho letto prima il 10 o il 20 o il 25, in realtà Calenda ipotizzava anche, se ho ben capito, un 5%, deve comunicare e dovrà comunicare che cosa? Quando lo compra, allora, in settori definiti strategici, anzi, esatto, sì, la definizione è società quotate operanti nei settori di interesse strategico. Esatto, allora partiamo dall'inizio. La norma in realtà non fa riferimento soltanto a investitori stranieri, ma to cure, sì, è vero, hai ragione, a chi ovviamente, diciamo, supera una determinata soglia di partecipazione. E si pensa nella norma, in questo momento nella bozza che abbiamo visto, a un 10% come livello di partenza. Calenda ha fatto riferimento al 5% perché c'è ancora una discussione in corso. Infatti i modelli stranieri sono due, quello francese, ma c'è anche quello americano che fa riferimento proprio al 5% come primo livello, oltre il quale bisogna fare alcune cose, comunicare alcune cose. Ecco, lo dico a chi mi sta scrivendo, non è una norma liberticida, cioè non viene impedito, tu puoi crescere, esatto, quanto vuoi. A differenza di quanto viene adesso, non lo puoi fare, diciamo, silenziosamente, cioè devi chiarire e dichiarare che cosa, Carmine. Esatto, la norma non vieta ovviamente una scalata, quindi anche da un punto di vista mediatico, oggettivamente, più che parlare di norma antiscalate, sarebbe, diciamo, giusto parlare, come fa Calenda, di norma antiscorrerie. L'obiettivo è, cioè, evitare, diciamo, che una scalata avvenga in modo opaco. Mai più un caso Vivendi, è quello che, diciamo, dietro le quinte va sostenendo il governo. Cioè Vivendi poteva tranquillamente salire anche dove è salita, fino alla soglia dell'OPA, ma avrebbe dovuto farlo, se fosse già esistita questa norma, in modo molto trasparente, comunicando, cioè, quali sono i piani nei successivi 6 mesi, se intende acquisire il controllo, se intende se opera da solo o in concerto con, cioè, altri. Se soprattutto vuole arrivare al controllo, con quale strategia intende farlo, che intenzioni ha per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali, quali sono i modi di finanziamento dell'acquisizione e se si intende anche proporre l'integrazione o la revoca di organi amministrativi o di controllo. Ricordiamo appunto che Vivendi poi ovviamente, nel caso Telecom ad esempio, una volta rastrellate alcune azioni, ha chiesto anche l'ingresso di componenti in CDA, poi ha di fatto cambiato i vertici, cose legittime prima e legittime anche oggi e domani, soltanto che, diciamo, quando ci sarà questa norma, tutto questo andrà comunicato alla società target, società di cui si acquisiscono le partecipazioni, e alla Consob, tutto entro 10 giorni dall'acquisizione delle partecipazioni rilevanti. Ecco, se uno però, perché me lo chiedono gli ascoltatori, allora, a parte il fatto che poi dovrà essere la Consob a dettare le disposizioni, no? Esatto, qua parliamo di fare un regolamento attuativo dal cui dettaglio si capiranno anche tante altre cose. È chiaro che il dibattito sul fatto che sia una norma statalista Io su questo però devo dire che gli altri paesi, noi siamo da sempre per liberalizzazioni, concorrenza, capitali esteri, anzi ce ne sono pochi di investimenti stranieri in Italia. Detto questo, tutti i paesi, tu citavi gli Stati Uniti, si tutelano in settori chiave, energia, l'approvvigionamento energetico non lo puoi lasciare come settore, diciamo, a uno straniero, perché quella è politica estera, non è economia in senso stretto. Il settore difesa, laddove contiene informazioni delicate e sensibili del tuo paese, e anche il settore telecomunicazioni, non per il telefonino chi mi dà la connessione. Lì mi sembra che, obiettivamente, lo dico agli ascoltatori, non manchi certo la concorrenza nel settore delle telecomunicazioni, ma perché l'ex monopolista o incumbent che ha in pancia la società che si occupa, per esempio, delle intercettazioni e della gestione di queste intercettazioni, beh, insomma, non la puoi lasciare a un paese straniero, visto che riguarda la sicurezza interna al tuo paese. Ma questo vale per tutti. Cioè, non... Tanto è vero che tutto quello che verrà fatto, la norma e anche il regolamento Consob, dovrà comunque rispondere poi ai requisiti di normative europee, cosiddetto Golden Power, cioè tutto questo si potrà fare soltanto in settori strettamente, sì, strategici e quindi regolati dai poteri speciali dello Stato. Cioè, se ti compri un'azienda del lusso, se ti compri un'azienda alimentare, non hai bisogno di comunicare nulla. Qualcun altro, esatto, mi chiede che cosa sarebbe cambiato rispetto adesso, che lo avremmo saputo. Beh, non è poco, però, nella vicenda, diciamo, Telecom, nella vicenda Mediaset, e basta, perché insomma di queste due stavamo parlando in questi giorni, cioè, non è poco e non sarebbe sto poco. Poniamo che Bolloré fosse stato obbligato, superato il 5% in Mediaset, a annunciare, b ma non solo annunciare, dove voleva salire, quanto voleva arrivare, chi se agiva da solo in concerto, se chi lo stava finanziando, anche lì ci sono cose un po' strane, perché lui riesce a raccogliere più titoli di quanti fossero quel giorno trattati, vuol dire che forse qualche accordo, forse diciamo così, è pleonastico, ma qualche accordo lo aveva con altri fondi che magari avevano azioni Mediaset. Il punto, Carmine, è se io non rispetto questi accordi, cosa mi succede? Cioè, se io dico no, ma io voglio solo prendermi il 5% e poi nel frattempo salgo al 20, al 15, al 25? Ma se non rispetti, se non vengono fatte queste comunicazioni, scattano. No, se io cambio, se io do una comunicazione che poi non rispetto, diciamo. In quel caso ci sono delle sanzioni che sono praticamente le medesime che già oggi esistono nel momento in cui non si comunica alla Consob l'acquisizione di una partecipazione rilevante, non che cosa si intende fare, semplicemente c'è l'obbligo già vigente, certo, di comunicare che si è acquisito oltre il 3% di una società quotata, è un obbligo che esiste da anni questo. Violato tale obbligo esistono delle sanzioni anche in proporzione che arrivano a un certo punto fino a essere proporzionali al fatturato. La novità, appunto, come dicevamo, non è l'obbligo di comunicare in questo caso l'acquisizione di una partecipazione, ma che cosa si intende fare. Il caso, ad esempio, Vivendi, prima giustamente qualcuno diceva ma che cosa avremmo saputo? Beh, l'idea del governo è che si sarebbe evitato una paralisi di fatto della governance di Mediaset, certo, sostanzialmente, in questa incertezza totale, laddove l'operazione ha i contorni o potrebbe avere i contorni di un'operazione appunto da rider, tra virgolette, potrebbe avere un secondo fine, diciamo, sostanzialmente. Ma non c'è dubbio, perché nel momento in cui tu hai il 5, comunichi che vuoi salire fino al 25, è chiaro che stai spiegando che te vuoi scalare Mediaset, no? Cioè, nel senso, non puoi dire ma stiamo diversificando gli investimenti. Sei obbligato a dirlo subito e a rispondere anche di quello che farai. Devo chiudere, Carmine, i tempi per questa modifica dell'articolo 120 del testo unico della finanza? I tempi sono, la norma entrerà come emendamento nel disegno di legge concorrenza che, salvo ulteriori rinvii che ci sono ormai da 2 anni, dovrebbe essere approvato entro aprile, dopodiché arriverà a stretto giro il regolamento Consob che dovrebbe poi insomma rendere operativa la norma. Grazie anche a Carmine Fotina del Sole 24 Ore, veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Ci sentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Barrisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24, libera la voglia di fare.